I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. La settimana parte in negativo per gli indici asiatici dopo il G20 di Shanghai, mentre venerdì scorso gli indici europei hanno chiuso la settimana con un bilancio positivo, anche se ci sono stati diversi saliscendi. Anche il ribasso profondo di metà settimana delle piazze asiatiche è stato completamente trascurato dal resto delle borse. Il focus è ancora sul petrolio, che sembra essersi stabilizzato in area 30-35 dollari con un picco di 36 venerdì. Le quotazioni hanno ripreso a salire anche grazie alle dichiarazioni del ministro del petrolio del Venezuela, che ha detto che si incontrerà presto con i colleghi di Russia, Arabia Saudita e Qatar per discutere su come stabilizzare i prezzi. Dagli Stati Uniti hanno ripreso ad arrivare intanto dati economici positivi, fra cui gli ordini di beni durevoli, che a gennaio hanno avuto un discreto balzo, e poi buono il dato sul prodotto interno lordo del quarto trimestre, rivisto al rialzo all'1%. Come dicevamo, indicazioni importanti sono arrivate dal G20 di Shanghai, da cui è emerso che la ripresa economica globale viene considerata continua ma ancora irregolare. Poi è stata manifestata anche una grande preoccupazione per la possibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che come sapete sarà decisa dal referendum del prossimo 23 giugno. L'ipotesi Brexit potrebbe rivelarsi, è stato detto dai leader del G20, uno shock per l'economia globale. Una notizia che ha movimentato l'Europa è stata quella relativa all'avvio delle trattative fra la borsa inglese e la borsa tedesca per una loro integrazione. In Italia abbiamo avuto un generale recupero del settore bancario. Venerdì sono arrivati i conti di Eni, che sono stati apprezzati dal mercato, tali da permettere un poderoso recupero di tutti i titoli del settore energetico. Questa settimana arrivano invece le trimestrali di Campari e Luxottica. Gli altri temi su cui focalizzare l'attenzione nei prossimi giorni: sta cominciando a montare l'attesa per la riunione della Banca Centrale Europea fissata per il 10 marzo. Il tema centrale di questa giornata è l'inflazione europea. Attenzione anche nel prossimo fine settimana al congresso del Partito Comunista cinese sul nuovo piano quinquennale economico. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Finanziari e governatori delle banche centrali dei paesi del G20 riuniti a Shanghai hanno prodotto un documento deludente dopo due giorni di trattative inconcludenti. Nelle 9 pagine del comunicato finale si affermano obiettivi generici e considerazioni banali, largamente condivise, ma senza minimamente sfiorare l'obiettivo che interessa a tutti: il varo di strumenti efficaci per fermare la spirale di incertezza e depressione dei mercati, rilanciare l'industria e l'occupazione dove la ripresa non è arrivata, stimolare la domanda mondiale soprattutto per impedire che la guerra valutaria in corso degeneri una bagarre commerciale di cui farebbero le spese le aree più deboli del mondo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, anche se oggi nervosismo e volatilità hanno segnato il passo delle borse e dei tassi di titoli di Stato. Dollaro, euro, yen e yuan hanno continuato a segnare un'alta instabilità sui cambi, malgrado le nuove manovre della Cina per aumentare la liquidità a disposizione di banche e imprese. Tutto sembra muoversi ormai la giornata, senza una precisa direzione di marcia, né in campo politico né in campo finanziario. Neppure i dati europei, che hanno confermato la difficoltà dell'Eurozona ad uscire dalla deflazione, hanno scosso più di tanto. La correlazione tra prezzi petroliferi ai minimi e indice dei prezzi al consumo a zero è ormai evidente, e neppure i 700 miliardi di euro spesi finora dalla BCE per spingere l'inflazione hanno prodotto risultati concreti. Uscire dal tunnel è difficile, ma sempre più urgente, e viene da chiedersi se le cose non andrebbero meglio se, invece di continuare a buttare liquidità in un pozzo senza fondo, non sarebbe meglio costringere l'Europa a usare i prossimi 700 miliardi non per spingere i prezzi, ma per stimolare investimenti, occupazione e crescita. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.